Incontri di Gianfranco Fabi. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Buongiorno, buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Abbiamo cominciato con le note di Volare di Domenico Modugno, 1958, per introdurre il nostro ospite di oggi, che proprio negli anni 50 ha cominciato la sua attività e poi ci ha accompagnato con le sue osservazioni, le sue analisi, le sue critiche sulla società italiana fino ad ora e continuerà ancora, speriamo, a lungo. È Giuseppe De Ritta. Buongiorno, dottor De Ritta. Buongiorno, Fabio. Giuseppe De Ritta è presidente, segretario generale del Censis, lo è stato per lungo tempo, l'ha accompagnato. Il Censis è una delle istituzioni di ricerca, è il Centro Studi e Investimenti Sociali, una delle istituzioni di ricerca più importanti dal punto di vista sociale e politico del nostro paese e, dicevo, l'ha accompagnato praticamente per tutta la sua vita, dal 64 in poi. Sì. Nel 55 sono entrato alla Svimez a lavorare con Saraceno alla pianificazione, piano Anoni, rapporto Saraceno, piano Giolitti, piano Pieraccini. Mi sono fatto 8 anni di programmatore. Poi nel 63 c'è stata una crisi in Svimez, Saraceno decise, credo anche dal punto di vista suo, giustamente, di ridurre gli organici, come si dice. Eravamo 60, decise che dovevano rimanerne in 12-13, quindi... Ecco, ma com'è nata la vocazione di sociologo, di osservatore della realtà, già subito nella Svimez? Prima ancora, perché quando studiavo all'università mi feci anche dei corsi di educazione civica al Castello di Sermoneta, c'era un movimento di collaborazione civica creato, credo, da Salvemi, che educava i giovani a un rapporto civile con la società, e quindi con il movimento poi feci anche l'educazione degli adulti fra Frascati e la borgata di Don Olimpia a Roma, e a quel punto mi misi anche a fare la scuola d'assistente sociale. Quindi anni lasciai, 50? Sì, lasciai la scuola di assistente sociale, il CEPAS, il giorno in cui mi stavo laureando. In pratica ritenni che ormai dovevo fare soltanto una cosa e non star con il piede in due scarpe, però i miei 3 anni di scuola di servizio sociale l'ho fatto, quindi c'era già questo. Quando poi andai alla Svimez nel 55, appunto, e Giorgio Sebregondi mi fece gli interrogatori, i colloqui di rito, perché stavano creando questa sezione sociologica, cosa stranissima che nel 55 qualcuno pensasse a una sezione sociologica, se ricordiamo che il primo professore di sociologia che è andato in cattedra in Italia è stato Ferrarotti nel 62, certo. Quindi 7 anni dopo. E la facoltà di sociologia del 68 successiva. Sì, sì. Quindi noi Svimez con questa sezione sociologica fummo i primi a fare un lavoro di ricerca sulla realtà sociale. Ecco, che tipo di realtà sociale era allora? Gli anni 50, gli anni della ricostruzione, gli anni un po' esuberanti, ma da un punto di vista proprio di analisi sociale, magari con qualche riferimento all'oggi, quali sono i suoi ricordi di quell'età? I miei ricordi sono prevalentemente meridionali, perché la Svimez era sviluppo del mezzogiorno, quindi dovevamo girare il mezzogiorno. E l'impressione che ancora oggi ho di una povertà spaventosa, di un analfabetismo incredibile e di un, diciamo pure, di una realtà oscura, buia, Io ricordo la mia prima traversata dell'Aspromonte, sarà stato il 57-58. C'erano ancora i briganti. C'erano ancora i briganti, c'era il mito di Lorenzo Calogero, che era un poeta che a quell'epoca andò molto di moda. Però queste drappi neri alle porte, queste donne tutte vestite di nero, questo nero che ti rincorreva, lì dove c'era umanità c'era il nero, non c'era il paesaggio era un'altra cosa. E con una realtà, forse perché l'azienda si orientava a guardare le zone più povere del Mezzogiorno, quelle che Rossidori chiamava l'osso, non la polpa del Mezzogiorno, noi ci facemmo in quegli anni tutto il Mezzogiorno povero, e in effetti era Mezzogiorno assolutamente poverissimo. In questo oggi si può dire che qualcosa è cambiato. Beh, se oggi si ritorna al Mezzogiorno, non sono tornato negli ultimi 2 o 3 anni in Aspromonte, anche se qualche volta mi viene la tentazione di riandare, però sono convinto che quello che si vede nel Mezzogiorno oggi è una società prevalentemente, mi spiace dirlo, consumista, che vive di consumo, che vive di tensione al consumo, che farebbe qualsiasi cosa, anche iscriversi a un'organizzazione malavitosa pur di avere i soldi per farsi il SUV, per farsi il Porsche, con una, diciamo così, ricchezza forse ambigua. Una ricchezza più apparente che reale, più di forma che di sostanza, una ricchezza forse a cui non fa riscontro un valore sociale. Di consumo che di produzione, se vogliamo vedere una cosa che va di moda in questi giorni. E quindi più di Stato che di privato, perché se non c'è produzione chi finanzia i consumi? Di Stato che di privato, beh certo. Perché nel Mezzogiorno il peso della spesa pubblica è enorme, il peso dell'impiego pubblico oggi è enorme, rispetto a 50 anni fa è molto molto molto cresciuto questo peso dello Stato, che allora sembrava leggero sostanzialmente, che noi chiedevamo essere più forte perché bisognava fare il big push, la grande spinta per lo sviluppo, oggi invece è soffocante. È troppo forte, è diventato troppo forte. Però questo permette di avere sostanzialmente, fra le pensioni, gli stipendi, i flussi di soldi che arrivano attraverso le opere pubbliche, eccetera, un livello di ricchezza del consumo molto forte. Se ci pensiamo, visto che siamo di domenica, ma se ci guardiamo intorno, cosa è successo ieri, cosa è successo oggi, cosa è successo nei giorni di Pasqua, queste strade piene di macchine, queste realtà che vanno comunque a divertirsi o a uscire dalla città il sabato e domenica, danno il senso di una ricchezza pecuniaria, diciamo così, monetaria, a cui non corrisponde una ricchezza di produzione, certo, di impresa, di salari industriali, è terziario basso. Incontri. Volare. Di stare qua giù. Bentornati alla seconda parte dei nostri incontri, oggi con Giuseppe De Rita, presidente, segretario generale del Censis. Abbiamo parlato nella prima parte degli anni 50, anche evocati da questa canzone di Modugno, "Penso che un sogno così non ritorni mai più". Erano gli anni certamente difficili. De Rita ha descritto anche la povertà, soprattutto nel Mezzogiorno, che è stato il suo primo campo di esame, ma siamo poi tornati rapidamente a parlare dei nostri giorni, con questa società molto basata, diceva il dottor De Rita, sui consumi, su un consumismo soprattutto al Mezzogiorno sostenuto dalla spesa pubblica, dalle pensioni, dai trasferimenti, da un consumismo però che rischia di perdere e di far perdere i valori della coesione sociale. Ecco, una coesione sociale che forse è uno dei problemi più forti dell'Italia di oggi. Proprio l'ultimo rapporto parla di che cosa ha parlato l'ultimo rapporto, professor De Rita? Abbiamo parlato gli ultimi due rapporti, che sono molto legati. Abbiamo parlato di una società che replica. Di fronte alla differenza abissale delle crisi del 2008-2009 rispetto alle crisi precedenti, anche quelle degli anni 70, degli anni 90, dei primi anni 2000, Questa crisi che sembrava epocale, che sembrava la crisi del 29, che sembrava la crisi di una fila di disoccupati, di poveracci, l'Italia ha resistito. Perché? Perché ha replicato il suo modello, perché ha replicato il modello basato sulla famiglia, sul consumo familiare, sul risparmio familiare, sulla proprietà della casa, sulla piccola impresa manifatturiera, su un po' di lavoro sommerso, su un po' di localismo, su un po' di welfare minimo dalla badante al comune che paga qualche assistenza agli anziani. Il suo modello, che è poi un modello nato negli anni 70, nei fatti, la famiglia SPA, Certo. dicemmo noi Censis tanti anni fa, è un modello che ha retto mentre in altri paesi vedevi fotografie di gente che non aveva la casa e montava la tenda in giardino, vedevi la gente che avendo restituito la carta di credito non aveva più possibilità cash di consumare, e noi invece no, che Peraltro è un modello però costoso che ha portato al debito, uno dei debiti pubblici più alti del mondo. Se abbiamo il terzo debito pubblico del mondo, è qualcosa che forse abbiamo caricato un po' troppo sulle generazioni future. Beh, abbiamo caricato un po' troppo sulle generazioni future, ed è una cosa giustamente, come diceva lei, che parte dagli anni 70, cioè dagli anni in cui abbiamo costruito questo modello italiani ricchi e Stato povero, diciamo così, e Italia povera. Però è anche vero che questo tipo di modello oggi, come oggi, garantisce non soltanto noi anziani, perché abbiamo partecipato al modello, ma anche i nostri figli, i nostri nipoti. Tant'è vero che c'è questa incrostazione dei giovani nella famiglia, nel restare in casa, che in parte è dovuta a incertezze psichiche, ma in parte è dovuta anche al fatto che la famiglia garantisce comunque, garantisce la casa, garantisce il consumo di base, e quindi il giovane può anche con i 1.200 euro di stipendi al mese, però se li Certo. può dedicare a se stesso, non alla casa, Non non alla al famiglia. consumo, cioè, questo è Però importante. il prezzo comunque si pagherà anche di una crescita demografica molto bassa, di una società che lei ha descritto vive un po' in apnea, vive un po' sul breve periodo, guardando un po' da miopi, un po' al futuro, quindi più sul breve termine che sul lungo termine. Ebbene, però questo deriva da un fatto fondamentale, che la vittoria in questi 50 anni della soggettività individuale, del soggettivismo etico, della soggettività individuale. Tutto attiene a noi stessi, ciascuno di noi ragiona in termini soggettivi. E allora la moglie mia la cambio quando voglio, il figlio mio l'abortisco quando voglio, l'azienda mia me la gestisco come voglio, il lavoro mio lo gestisco come voglio, gli studi sono miei, il tempo libero è mio, il corpo è mio, certo? Volte il peccato è mio e mi assolvo da me Assolve. stesso. Cioè, questa soggettività che diventa soggettivismo etico, da una parte ha dato delle grandi cose. Tutta la piccola impresa italiana è di stampo soggettivo, cioè Certo, di piccoli di operai piccoli che diventano che imprenditori. ci mettono la propria vita Certo. sopra la mia azienda, è la mia vita sostanzialmente. E la saga della piccola impresa negli anni 70 è la saga di questa soggettività. Non a caso in quegli anni facevamo anche altra soggettività, tutti i diritti individuali, la lotta per l'aborto, la lotta per Il il divorzio. divorzio. Questa vittoria enorme della soggettività, del primato del soggetto, del primato del soggetto che diventa anche soggetto etico di se stesso, fa sì che quando uno va a vedere, fai figli o non fai figli, la soggettività è: ma io ho altro da fare, io ho il mio lavoro, ho i miei impegni, ho il mio tempo libero. E allora questo senso della scommessa sul futuro cade di fronte all'agiatezza quotidiana, al viver bene dei singoli soggetti oggi. Senza soggettività, non avremmo avuto questo modello, ma con questa soggettività non abbiamo molta spinta per il Ecco, in futuro. questo si verifica anche un certo appannamento, un tramonto della politica classica, forse della politica che l'Italia ha conosciuto negli anni 50, 60, una politica forse un po' troppo ambiziosa di programmazione. Adesso anche la politica è un po' chiusa in se stessa, è molto individuale. Ma abbiamo due elementi. Il primo è che quando una realtà è molto soggettiva, quando un popolo è molto soggettivo e non si riunisce più in grandi operazioni politiche, in grandi visioni, in grandi programmi, perché ognuno pensa ai fatti suoi, nei fatti, e quindi non si mobilita per meccanismi o per traguardi collettivi. E la politica è traguardi collettivi, certo. La politica è gestire la mobilitazione collettiva per i traguardi collettivi, se non c'è questa politica non esiste, ed è così. In più del secondo aspetto, la politica odierna è molto personalizzata. Se posso schierarmi con il presidente Berlusconi perché lo sento soggettivo come me nelle sue rabbie, nei suoi comportamenti, nei suoi valori o disvalori. E magari invidia un po' la sua ricchezza. Invidia anche la sua ricchezza, ma perché mi devo impersonare in persone che sono rispetto a me uguali? Allora preferisco, se devo impersonarmi con qualcuno, preferisco uno che è al di là di un certo standard. Se è sotto un certo standard non mi interessa. Ecco, ma perché la Lega è nata al nord e non è nata una Lega nel mezzogiorno? È nata al nord perché al nord c'era il localismo economico, al nord c'erano i distretti, al nord c'era la ricchezza localistica. Mentre al sud io ricordo, forse Bossi non lo ricorda più, che mi venne a trovare un giorno, era 89, era l'unico senatore della Lega, e con il tono un po' sbrigativo che ha Bossi mi disse: dottore, lei ha scoperto il localismo economico, Prato, Sassuolo, Montebelluna, Valenza, io ho scoperto il localismo politico, mettiamoci insieme e faremo grandi cose. Io come forse lei sa, ho un solo peccato, l'orgoglio intellettuale. Lo guardai e dissi: ma come io, ma come faccio a fare un'alleanza così? Però ho capito con il tempo. Un po' si è pentito di non averla fatta? No, neppure lui probabilmente. Quindi sotto questo profilo la Lega non è un fenomeno, non possiamo più ormai dopo decenni considerarlo un fenomeno, ma è qualcosa di reale che rappresenta gli interessi in fondo. Quindi c'è comunque una rappresentanza di interessi all'interno della politica. Sì, però è tutto, in questo i leghisti sono stati bravissimi, è tutto subordinato al territorio. Difendere interessi oggi, se io mi metto a difendere gli interessi degli studi professionali, di avvocati o di ingegneri, o gli interessi degli operai, tanto per dire, è difficile che mi danno retta. Se invece io difendo gli interessi concretizzati su questo territorio, faccio un esempio perché me l'ha detto un amico leghista, io non difendo Malpensa come grande hub internazionale, io difendo Malpensa, difendo il direttore di Malpensa, i 4 condirettori di Malpensa, i 20 funzionari di Malpensa, i 100 fino ai 20 che si occupano dei cessi, degli gabinetti. Io li difendo tutti, difendo quel territorio con gli interessi di quel territorio. Mentre noi pensiamo alla rappresentanza di interessi per segmenti categoriali, difendo i manager o difendo gli operai o difendo i pulitori di gabinetti, è questo il punto. È la forza della Lega è di essere diventato un sindacato di territorio. Allora un'ultima domanda proprio per concludere, purtroppo, perché potremmo proseguire ancora a lungo. Questa Italia che viene spesso descritta come un paese in declino, è un paese che comunque ha ancora al suo interno le risorse per superare la crisi? Io sono un antideclinista per motivi anche di ottimismo personale, ho 8 figli, 14 nipoti, quindi se mi metto a parlare di declino questi si deprimono immediatamente. Credo che però ci sia un problema di reazione al declino, che non possiamo più fare attraverso il vecchio giochetto, dice, ma noi siamo manifatturieri e abbiamo il made in Italy, non basta più. Bisogna fare, per esempio, cominciare a fare un terziario avanzato, siamo nelle graduatorie internazionali, i primi e i secondi, come sistema sanitario di efficienza, e cominciamo a esportare le nostre eccellenze sanitarie, cominciamo a esportare le nostre eccellenze professionali, magari anche di professioni, di vecchie professioni, dagli avvocati ai commercialisti, cominciamo a esportare terziario. È il terziario su cui oggi possiamo giocare di più. E quindi ristrutturare il terziario e rivendercelo bene. Rivendercelo bene, un lavoro di fantasia, di coraggio, di capacità anche di superare i vecchi schemi. E si conclude qua, direi purtroppo, il nostro incontro con Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Lo ringraziamo, l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie.